è lui, esso, l'infante. O mio Rodrigo, altezza, sei tu che io stringa il seno. O mio prince, signor. Soccorrer tu lo dei ti fa suo salvator. Ma che vidio, quale pallor, qual pena, un lampo di dolor sul ciglio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai triste il cor. Carlo mio, con me dividi il tuo pianto, il tuo dolor. Mio salvatore, mio fratel, mio fedele, lascia che pianga in seno a te. Versami in cor il tuo strozio crudele, l'anima tua non fia chiusa per me. Parla, lo vuoi tu? La mia sventura prendi, e quale orrendo stral il mio cuor trapassò. Amo. D'un colpevole amor. Elisabetta, tua madre, giusto ciel. Qual pallor, lo sguardo chini al suol, trista me, tu stesso, e mio Rodrigo da lontani da me. Rodrigo ancora, io te il posso giurar, tu soffri, già per me l'universo dispone. Mio Rodrigo, mio prince, questo arcano dal re non fu sorpreso ancora. No. Ottien dunque da lui di partir per la Fiandra. Taccia il tuo cor, degna di te, opra farai. Apprendi omai in mezzo a gente oppressa divenire un re. Ti seguirò, fratello. Ascolta, le porte dell'asil s'apron già, qui verranno Filippo e la regina. Elisabetta! Rinfranca accanto a me lo spirito che vacilla, serena ancora la stella tua nei cieli brilla. Domanda al ciel dei forti la virtù. Dio che nell'alma infonde amor vorresti esprimere. Insieme, in te congiungere ci può la tua bontà. Dio che nell'alma infondere amor vorresti esper, desio nel cuore accendere, tu dei di libertà, desio accendere, accendere nel cuore, tu dei. Morremo insieme, il destremo sarà, il destremo sarà.